sangue, città di potere, paese civile, senza alcun avvenire, città di idee, senza bandiere, città di poveri, di ladri e galere, città di favori e di polizia, di manganelli contro la democrazia, città di buffoni senza ragioni, città di preti e disoccupazione, città di spari, città per bene, città di mafia, dove tutto è avere, città di dottori e raccomandazioni, città di uomini senza informazioni. Citazione, città di attori senza reputazione, città di fango, città di miele, città che strugge sotto le candele, città di scandali, educazione, dove la TV incoraggia la partecipazione, città di VIP e di veline, di modelle belle senza proteine, città di trucchi a spillo, città di baci e di arrivismo, città nel mare, città salata, città di gente un po' malata. Banche, città di debiti, città di tasse, città di dotti, città di incolti, città di stragi, città di masse, città strappata, città rubata, città un po' spenta ed inquinata, città del voto al politicante, città del popolo che non conta niente, città del lavoro senza diritto, città che piange per pagare l'affitto, città di carne, città arrivata dentro al consumo che la mangiare.